Lo avrai, camerata Kesselring, il monumento che pretendi da noi italiani. Ma con che pietra si costruirà, deciderlo tocca a noi. Non con i sassi affumicati dei borghi inermi straziati dal tuo sterminio. Non con la terra dei cimiteri dove i nostri compagni riposano in serenità. Non con la neve inviolata delle montagne, che per 2 inverni ti sfidarono, non con la primavera di queste valli che alla fine ti videro fuggire, ma soltanto con il silenzio dei torturati, più duro di ogni macigno, soltanto con la roccia di questo patto giurato tra uomini liberi, che volontari si adunarono per dignità e non per odio, decisi a riscattare la vergogna e il terrore del mondo. Su queste strade, camerata Kesselring, se tu vorrai tornare ai nostri posti, ci ritroverai, morti e vivi, con lo stesso impegno, un popolo serrato intorno ad un monumento che si chiama Ora e Sempre Resistenza. Grazie. Piero Calamandrei. Marino Severini, chitarra voce, Santo Severini, chitarra elettrica, niente. All'alba del 4 di maggio arrivarono le orde assassine, in tanti e più di 2000, la feccia del terzo regime. Li guidavano i cani da guardia, la guardia dei repubblichini. In tanti, più di 2000, 2000 vili aguzzini. E all'alba, quassù sopra il monte, Sant'Angelo s'era svegliato, quando aprirono il fuoco e a calci le porte sfondarono, ed entrò così l'inferno, l'inferno qui sulla terra, l'inferno quello dei vivi, l'inferno che chiamano guerra. E pietà, pietà gridammo fra le lacrime e i lamenti, prima gli alberi e le mura. Poi noi cademmo innocenti. Mazzarini Maria, presente. Mazzarini Nel, presente. Mazzarini Marino, presente. Mazzarini Bill, presente. Mazzarini Rosa, presente. Mazzarini Santa, presente. Mazzarini Palmina, di anni 6, presente. Del 4 di maggio ci bucarono gli occhi e le mani, perché nostra colpa era quella di essere fratelli dei partigiani. Ma il sangue nostro versato è quello che inizia la terra, nell'ora della promessa pure sempre. Mazzarini Pietro, presente. Mazzarini storia. Pesano secondo voi le ingiustizie? E soprattutto qual è il loro prezzo? E chi lo ha pagato nel corso della storia? Partiamo da una data, il 12 luglio del 1944. Siamo a Sant'Anna di Stazzema, poche case in provincia di Lucca, in Toscana. È una storia che parte da una fotografia in bianco e nero leggermente sfocata. Ritrae un gruppo di bambini che giocano festosi. Davanti al parco della scuola cantano e ridono felici. E si tengono per mano e compiono un giro tondo. Le bambine vestite di bianco con i grembiuli puliti e i capellini in testa. E i bambini con la camicia, i pantaloni corti e le bretelle. Giro giro tondo, casca il mondo, casca la terra, tutti giù per terra. Poco prima avevano scritto i loro sogni su dei fogli di carta, frasi di bambini che vivono spensierati dentro i loro giochi, mentre intorno alla guerra dei grandi distrugge e divide il mondo. Sogno di fare il dottore per aiutare le persone. Sogno di diventare vecchio come mio nonno, sogno di vedere il mondo. È il 12 agosto del 1944, un mese dopo. Quei sogni di bambini vengono infranti da qualcosa di più grande di loro, qualcosa che ha a fare con la violenza dei grandi, i razzi illuminarono il cielo di rosso. E poi apparvero i soldati nazisti della 16ª divisione Panzergranadier. Entrarono dritti a Sant'Anna di Stazzema, accompagnati dai nipotini del sindaco Alemanna, cioè accompagnati da una sorta di generazione sostanzialmente fascista che ha governato i sistemi di potere di questo paese. Prima, durante la seconda guerra mondiale e poi dopo. Gli apparati dello Stato, gli uomini dei servizi segreti. Fino ad arrivare a Genova, quando ci facevano sentire le marcette di Pinochet. E le faccette nere dentro nei cellulari. Mentre randellavano di botte tutte le persone che non la pensavano come loro. Questi sono i complici della strage di Sant'Anna di Stazzema. Hanno bruciato le case, hanno devastato le chiese, 560 morti. E poi, anni dopo, non si sono mai pentiti. Hanno detto che è sempre stata roba di altri. Erano i soldati nazisti. Non siamo stati noi. Erano gli altri. Io vi consiglio di andare a Sant'Anna di Stazzema, perché a Sant'Anna di Stazzema voi arrivate da una strada provinciale, poi fate due curve. Alla seconda curva voi mi ponete una domanda chiara: chi ha portato i soldati nazisti a Sant'Anna di Stazzema? È una domanda semplice, ma non ve la potete fare ora, dovete andarci. Alla seconda curva, al secondo tornante, voi capite perfettamente il senso di questa domanda. Perché i nazisti stavano a Viareggio. Qualcuno li ha portati. Ed è quindi complice. E tutte le persone che fanno saluto romano oggi sono complici della strage di Sant'Anna di Stazzema. E c'è scritto dentro nella Costituzione di questo paese che è vietata la ricostruzione del partito fascista. Questa non l'ho scritta io, l'hanno scritto i costituenti. Allora state da una parte o dall'altra, vuoi stare dalla parte della Costituzione, non c'è problema. Vuoi stare da un'altra parte, vai in un altro paese. Te ne vai. Non è il tuo paese questo. Siamo noi la maggioranza, non loro. Noi siamo la maggioranza. 560 morti. Una di loro era nata pochi giorni prima, si chiamava Anna Patini. E poi andate a Sant'Anna di Stazzema e troverete una lapide, in sua memoria c'è scritta Anna Patini, la più piccola dei tanti bambini che la guerra ha acquistato dai girotondi. Quella fotografia di bambini che soltanto qualche giorno prima correvano, ridevano, senza preoccuparsi delle cose del mondo, conserva oggi il senso della storia e della memoria. Uno dei grandi scrittori del Novecento, Cesare Pavese, alla fine della Luna il Falò ha scritto: ora che ho visto che cos'è la guerra, so che tutti se un giorno finisce dovrebbero chiedersi, e dei caduti che facciamo? Perché sono morti? Io non saprei che cosa rispondere, non adesso almeno, non mi pare che gli altri lo sappiano, perché lo sanno unicamente i morti, soltanto per loro la guerra è finita, davvero. Thank you. mai morti. Nel 1944 Sant'Anna di Stazzema si trova proprio sul filo della cosiddetta linea gotica. È una linea che taglia in due la penisola italiana da Massa Carrara a Pesaro e si estende per una lunghezza di 320 chilometri. I nazisti sono in ritirata dopo gli sbarchi delle forze alleate in Sicilia e ad Anzio. Montesole e Mazzapotto, dalle mie parti, si trovano in provincia di Bologna, sull'Appennino tosco-emiliano. Nella zona di Montesole sono in corso da mesi le azioni clandestine del gruppo partigiano Stella Rossa. Il feldmaresciallo Albert Kesselring organizza la sua risposta militare e il capo dell'operazione è Walter Reder, attento il Monco. La mattina del 29 settembre del 44, prima di muovere all'attacco, quattro reparti delle truppe naziste accerchiano una vasta area di territorio compresa tra le valli del fiume Setta e Reno, dalle frazioni di Panico, Vado, Quercia, Grizzana e Pioppe. Le truppe si muovono come granchi all'assalto di abitazioni, di cascine e di scuole. Nella frazione di Casaglia di Montesole la popolazione impaurita si rifugia dentro nella chiesa. Prima tocca a Don Ubaldo Marchioni, poi ai vecchi e alle donne e ai bambini. Poi i criminali si sportano dentro del cimitero. La loro mitragliatrice colpisce ed uccide 147 persone, tra le quali 50 poco più che ragazzini. E la strage è soltanto all'inizio, perché ogni località, ogni frazione, ogni casolare viene setacciato dai soldati nazisti. E dopo sei giorni di rastellamenti e di violenze, 1830 persone perdono la vita. Yeah. nazifascisti proseguono i massacri senza interruzioni in gran parte delle città, dei paesi. Come è andata a finire? È andata a finire che 50 anni dopo, nel maggio del 94, a Roma, viene trovato un armadio. Ora, io ho scoperto che ci sono degli armadi che sono come gli uomini, solo che invece di mangiare le cotolette si mangiano i fascicoli. Allora c'era un armadio che era stato dimenticato, era stato lì tutto bello tranquillo per 50 anni e era diventato grasso. Grasso come Giuliano Ferrara, fosse ancora qualcosa di più. Poteva pesare 130-140 tonnellate, il peso di tutti quei faldoni. Ogni tanto frignava, piangeva, si sentiva che lamentava. Si lamentava perché non gli portavano più i faldoni. La guerra è finita, continuava a dire, liberatemi. A un certo punto qualcuno, questa è la leggenda, c'erano degli operai che non sapevano che cazzo fare, e allora cosa fanno gli operai? Tirano le mazzate contro un vano e viene fuori il grasso armadio, la bestia vivente piena di faldoni. Non è vero. È vero molto più probabilmente che qualcuno ha fatto trovare quell'armadio. Gli hanno detto, su sul tuo urlare di notte, urla. O gli diamo degli altri faldoni, o facciamo qualche altra strage, e di così possiamo dare un giorno degli altri faldoni, oppure dobbiamo liberarlo dalla mossa, dalla sua storia. Quando l'hanno liberato, hanno trovato dentro, pensate, 625 fascicoli. C'era dentro un registro di 2.225 voci, c'erano i nomi di tutti i colpevoli. Al numero uno c'era l'eccido delle fosse ardeatine qui a Roma, in testa Herbert Kapler, seguito dai nomi di tutti gli altri assassini. C'era anche il nome di quel simpaticone di Erich Priebke, il nonno. Quello che tutti i venerdì mattina va a ritirare la sua pensione, il nonno. E quando c'è la pressione alta va dal dottore, gli prova la pressione. È bellissimo, prego. Anzi, noi in tutti gli spettacoli continuiamo a dire la stessa cosa, perché è vera. Dobbiamo lanciare un messaggio. Adottiamo Priebke, non sappiamo più dove metterlo, il nonno. Qua vicino a Frosinone, un testa di cazzo, gli era venuto in mente un'idea straordinaria, perché ci sono dei geni nel nostro paese. Ogni tanto, non sapete che noi siamo un popolo di navigatori, di poeti, anche di teste di cazzo. Ne costruiamo alcuni milioni, no? Un fiume di teste di cazzo. Uno di questi mi è venuto in mente un'idea geniale. Se io faccio il concorso della Miss di Frosinone e come testimonia ci metto dentro Priebke, della tua, no? Nel tuo concorso sulle mise che non ti si fila nessuno, probabilmente qualche 30 righe, 40 righe, 50 righe in questo paese della vergogna, è facile che qualche scribacchino riesca anche a farti il pezzo. Non solo, sono andati avanti oltre, hanno pure intervistato Priebke, che ha detto che era onorato a venire tutta questa bella gente, tutte queste belle gnocche. Questa è la sostanza del nonno. Allora, era stato tutto archiviato per sempre. Si aprono i processi e arrivano le sentenze. Il 22 giugno del 2005, per la strage di Sant'Anna di Stazzema, 10 ufficiali e sottufficiali tedeschi vengono condannati all'ergastolo dal Tribunale Militare di La Spezia. Il 14 gennaio del 2007, il Tribunale Militare di La Spezia condanna all'ergastolo 10 imputati per l'eccidio di Bazzabotto di Montesole. Voi direte, c'è stata una giustizia. Se almeno c'è stata una giustizia, eh? Oggi i colpevoli condannati hanno 87 anni di media. Poi ci sono i nonni come Priebke, che hanno 94-95. Ma nel 1960, quando vennero archiviati questi fascicoli dell'armadio della vergogna, questi criminali avevano 40-50 anni. E nel 45, quando è finita la seconda guerra mondiale, questi assassini avevano 25-35 anni. La politica non è in grado di offrire ai suoi cittadini una verità condivisa su tutti quei fascicoli nascosti nell'armadio, perché oggi noi viviamo nel paese della vergogna. Grazie. La luna è un grande lume, e via noi enti si uscirono dal campo verso il fiume. Scesero dal monte, lo zaino sulle spalle, doveva farsi andare il ponte a Serravalle. Gabriele era un fornaio e di solo studente, scapparono in montagna all'8 di settembre. I boschi già dormivano, ma un gufo li avvisava. giornate lunghe e ori al venti s'uscirono dal campo verso il fiume, dal campo verso il fiume. Uomo nel 1969. Nel 1969 la televisione era in bianco e nero. C'era un solo canale, il primo. Allora a casa mia al posto dell'antenna c'era un filo. Ogni tanto qualcuno lo spostava a destra e non si vedeva un cazzo. Ma mia mamma diceva: qualcuno la sposti a sinistra. Allora prendevo il filo, lo portavo sulla sinistra, non si vedeva un cazzo. Eh? Il telecomando, eh? Adesso, ciac, ciac, ciac. Tu uomo puoi schiacciare tutti i canali che vuoi, ti sembra, tac. I giochettini, mandi le mail, rispondi. Senti l'iPod, senti musica. No. Nel 69 per ascoltare il rock bisognava sintonizzarsi su Radio Luxemburg. Oppure c'era una radio che si chiamava Radio Carolina che trasmetteva sul canale della Manica. Era un barcone di pazzi che girava per tutto il canale della Manica. E tu potevi ascoltare il suono dei Rolling Stones soltanto dalle ore 21 alle ore 21.05. 21.08 già non ascoltavi più nulla. Allora sentivi da lontano, sentivi. Oppure i Beatles. Let it be. Alla RAI invece c'era Orietta Verdi. Sentivi che ti sentivi a casa tua. Quando tornavi a casa sentivi Orietta Verdi ed eri contento di essere un italiano. Non guadagnavi un cazzo. Lavoravi circa 12 ore al giorno a Cottimo. C'era uno che ci schiacciava il cronometro e diceva: ehi, oggi hai fatto soltanto 4.418 pezzi. Però se ti puoi impegnare di più magari ne puoi arrivare a 5.000, se fai 12 ore, sempre lo stesso prezzo. C'erano migliaia di persone in piazza e chiedevano i diritti e chiedevano lo statuto dei lavoratori che sarebbe fermato da poco. C'era anche... C'erano tante cose in televisione, c'erano, io non me le sono segnate perché a ricordarle. Ti ricordi uomo della televisione dei ragazzi, la TV dei ragazzi, 17.30. C'era un signore chiamato Lombardi, che era l'amico degli animali, che lui aveva deciso che voleva parlare solo con gli animali, allora quindi parlava con i cani, i gatti, i leoni, i serpenti. Ma non parlava con gli uomini, perché diceva che gli uomini non avevano capito un cazzo, i serpenti invece sì. E poi c'era Paolo Poi, che oggi c'è 80 anni, un grandissimo uomo di teatro, che si vede travestimenti straordinari, allora raccontava le sciabbe per i bambini. Quando eravamo piccoli ci avevamo tutti la bocca aperta quando lui faceva i viaggi di Gulliver. E poi... E poi c'era Giovanna, la nonna del Corsaro Nero, eh? Nonnetta sprint più forte di un bicchiere di gin. c'era Ivanoi, il Cavaliere senza macchia, senza paura, che si batteva contro gli uomini giovani senza terra, c'era i Lanfrondi, i compagni di Ball, c'era il Quartetto Cetra, c'erano gli sceneggiati, Tino Borselli, Nero Wolf, Cino Cervi, il commissario Maigret, Ubaldo Lai, il mitico tenente Sheridan, e poi c'era un pirla chiamato Febo Conti. Ora, Febo Conti, voi dovete sapere che è stata la mia ossessione. A parte che non c'era solo Febo Conti, cioè Febo in realtà era una sorta di mito per noi bambini, no? Ma il personaggio più inquietante in realtà era il Mago Zurli. Perché lui, quando toccava sti bambini, io mi inquietavo, io mi sentivo male. Cioè, aveva una faccia strana, non prometteva nulla di buono. Era meglio non finire sotto le grinfie del Mago Zurli. Ma poi che cazzo voleva da noi? Eh? Chissà chi lo sa! Di Febo Conti! Diceva sempre la squadra di Val Madrera, sempre loro, squillino le trombe, entrano le squadre, c'era sempre Val Madrera, ma dove cazzo è Val Madrera? L'ho scoperto un giorno andando sulla strada verso Sondrio, mi volevo fermare ad andare dal sindaco dicendo mi avete rovinato tutta l'adolescenza, io volevo vincere, ma non ho vinto. Ad un certo punto mia madre mi guardava e diceva, dopo Carosello tutti a letto, eravamo io e mio fratello, tutti a letto, tranne la domenica alle 20:30, quando c'era la freccia nera, la freccia nera fischiando si scaglia, e la cupa canaglia, il saluto ti dà. Eravamo un popolo di disgraziati, un popolo di barboni, però ad agosto tutti a mare a Riccione, avanti, con le pizzuccine che costavano 5.000 lire, ti davano anche da mangiare anche 4 volte al giorno, ti ingrassavi per 5.000 lire, sempre lo stesso prezzo, 69, sempre, tu andavi nel 70, non avevano ritoccato il prezzo. E poi c'era il calcio. E c'erano le formazioni, quella del Milan. Cudicini, Aquiletti, Schnellinger, Rosato, Malatasi, Trapattoni, Amarin, Rodetti, Sormani, Rivera, Prati. Quella dell'Inter era come una sorta di rosario. Sarti, Buoni, Facchetti, Vedi, Guardi, Ripicchi, Jair, Mazzola, Peirò, Suarez, Corso, le Figo, le mitiche Figo, quelle che vincevi o perdevi giocando al muretto, le Figo, cielo manca, lo scudetto della Fiore era introvabile, Fiore, la scudetto della Fiorentina, introvabile, un giorno un bastardo usuraio chiamato Claudio per accedere lo scudetto della Fiore mi chiese 10 pizzaballa, 5 chiarucci, 3 bulgarelli e 2 dessisti che non valeva un cazzo, però 2 dessisti va bene lo stesso, mi indebitai per sempre. Qualche settimana fa c'era qualcuno mi ha ricorso dietro chiedendomi dove cazzo è finito Pizzaballa. Mi chiedono ancora il Pizzaballa! Eravamo un popolo di disgraziati, di barboni. Però avevamo anche la memoria lunga. Il 12 dicembre del 1969 mancavano 13 giorni a Natale. Era quasi sera, la Milano era illuminata a giorno. I grandi magazzini sfavillanti, le compere, gli acquisti, e luminari adombavano il centro che sembrava un carnevale. Migliaia di persone stipate in pochi mesi da corso Vittorio Emanuele, piazza Duomo, piazza San Babila, andavano su e giù e osservavano le vetrine. C'erano gli zapponiari e i venditori di caldarroste. Al bar del Barba ti servivano espressi in continuazione 50 lire a tazza. Al teatro della Scala stavano rappresentando le bandiere di Siviglia. A Rivoli un uomo da marciapiede, all'Excelsior nell'anno del Signore. Il freddo ti stava entrando nelle ossa, ti sentivi felice, immortale, allegro, innocente. Ad un tratto un fortissimo e dirompente boato ha rotto quella strana obbligatura invernale. Giungeva dalla Banca Nazionale dell'Agricoltura di Milano, di Piazza Fontana. 17 morti e 88 feriti. Alle 16.37 noi tutti eravamo già vecchi. Grazie. com'è andata a finire. E la strage di Piazza Fontana il 30 giugno del 2001. La Corte d'Assise di Milano condanna l'ergastolo Delpo Zorzi, Carlo Maria Maggi e Giancarlo Rognoni. 3 anni dopo, il 12 marzo del 2004, la Corte d'Assise d'Appello di Milano assolve Delpo Zorzi, Carlo Maria Maggi per insufficienza di prove e Giancarlo Rognoni per non aver commesso il fatto. Il 3 maggio del 2005 il processo si chiude in Cassazione, con la conferma delle assoluzioni degli imputati e l'obbligo da parte dei parenti delle vittime del pagamento delle spese processuali. I giudici compiono un capolavoro. Resta però una verità storica, anche dalle sentenze di assoluzione. La responsabilità di Franco Freda e Giovanni Ventura, ritenuti anche dalla Corte di Cassazione tra gli esecutori della strage di Piazza Fontana, anche se ormai non più giudicabili dopo la soluzione definitiva del gennaio del 1987. Nessuna giustizia per la strage di Piazza Fontana. Per la strage alla Questura di Milano del 17 maggio del 1973, 4 morti. Nessuna giustizia per la strage di Piazza della Loggia a Brescia. Per la strage sul treno Italicus del 4 agosto del 74, quando tu, uomo, volevi andare al mare e non ti hanno mai fatto andare. Nessuno ha pagato per gli omicidi di Roberto Franceschi, assassinato dalla polizia la sera del 23 gennaio del 73 davanti all'Università Bocconi di Milano. Non sono mai stati scoperti killer di Fausto Tinelli, di Lorenzo Iannucci, detto Iaio, colpiti il 18 marzo del 78 in via Mancinelli a Milano. Nessuna giustizia per Saverio Saltarelli, Franco Serantini, Claudio Baralli, Ciannino Zibecchi, Piero Bruno, Alceste Campanile, Giorgiana Masi, Walter Rossi, Valerio Verbano e per Carlo Giuliani e per centinaia di ragazzi uccisi soltanto per le loro idee. Mai dimenticare. Sono il monte, poco dopo il tramonto, sono i figli promessi alla fine del mondo. Sono solo ragazzi tra la pioggia e il fuoco. pezzo lo voglio dedicare ai più giovani, ai ragazzi, e sono molto contento di farlo qui, in questo cinema che è stato confiscato, era un vecchio, diciamo, bene della mafia, della banda della Magliana, e oggi ci permette di stare qui a raccontare questa storia in particolare, più di ogni altra storia. Questo pezzo è stato scritto da Raia Marazzini, un poeta bravissimo, perché è riuscito a condensare in 5 minuti una storia drammatica, e devo dire anche una storia che tutti possono capire, cioè tutti voi possono, potete capire, perché è una storia semplice. Sono due ragazzi che si baciano, che si amano davanti al palazzo dell'arte più famoso del mondo, il Palazzo degli Uffizi a Firenze, la sera del 27 maggio del 1993, la sera di Via dei Gergovi. Di maggio si sta bene fuori, e pennellate di colore e gli occhi della Madonna e il naso del bambino, i colori che brillano accesi, mentre una famiglia cammina senza pensieri cattivi. Angela Fiume in Elcione, 36 anni. Fabrizio Elcione, 39 anni. Nadia Elcione, 9 anni. Caterina Nenzoni, 6 mesi. È una famiglia che passeggia prima di rientrare in albergo tra queste vie fiorentine, e crescono uomini di lettere e uomini di pittura, ed è statue immobilizzate in gesti antichi, meravigliose, e la vita che ancora sta dando il meglio di sé. Dario Capolicchia, 22 anni. E l'una di notte, e la pallida luna fa ombra ai rossori degli amanti, e i colori ad olio eterni si squagliano come acquarelli al calore dei sostegni. E se tu oggi vai a Firenze, ehi uomo, se tu ancora oggi vai a Firenze, tu puoi vederli, due ragazzi incollati alla Vespa dai baci, le gambe incastrate per un amore totale anche dove non si dovrebbe. Ma come fai? Come fai ai suoi sorrisi non prestare ascolto? diventare una cosa sola nell'ombra della strada. Stringerla per sempre e non salutarla mai. Ancora 5 minuti, devo andare. E poi tutti a ridere. Ma come fai a andar via per sempre? Tu parla più via. Ti bacio, si resta. Ancora 5 minuti, no, è quasi tardi, quasi l'una, no. Ti bacio, devo andare. No, 5 minuti ancora. Ti bacio anch'io. Dolce notte. Ma che fine farà la bellezza fra 5 minuti? E quale stato si ridurrà l'arte fra 5 minuti? Cera si spaglierà e i colori ad olio si annacqueranno e il marmo si sbricciolerà e gli affreschi che gli uomini avevano realizzato per noi e che stavano lì da oltre 500 anni si staccheranno e molleranno. Il bronzo si fonderà in figure frattali e la pietra franerà, mentre le chiavi di volta ormai arrese non riusciranno mai più a contenere le strutture chiuse in tutte le loro architetture. Bacio nuovo, bacio vecchio ci sarà, se fa 5, 4, 3, 2, 1 minuto, fa 5, 4, 3, 2, 1 secondo, tutto sarà fumo e fuoco, e terra e cessi. E sublimare tutto questo, perché qui non c'è stato un duello da narrare, qui non c'è stata una battaglia di valorosi, non c'è stato una sfida lanciata a tempo debito, un guanto con il quale tu puoi avere scafeggiato l'altra parte. Qui soltanto assassini vigliacchi, una famiglia, madre, padre, un bimbo, una bimba appena nata, pochi mesi, ancora 5 minuti e sarebbe per loro tutta un'altra vita. Ma la vita è questa, nessun destino umano a 5 minuti di riserva. Grazie! Raya Marazzini! Solo per dire che il testo di questa canzone che si chiama Ricordo d'autunno è il testo di Giovanni Impastato, il fratello di Peppino, noi abbiamo fatto questa canzone e questa canzone insieme ad altre 25 fanno parte di un CD edito dal Manifesto e si chiama appunto 26 canzoni per Peppino Impastato. Lo sottolineo tutte le sere perché penso che sia un gesto di grande civiltà della musica in Italia. Succede poche volte, quindi se vi capita compratelo, insomma, questo disco, è il della qualità. Rescorrerà il mattino, c'era odore di crisantemi, il viso tuo ricordo di sonno e vuoto, e il pianto delle donne e il suono delle campane, è andato in paradiso con gli angeli a giocare, ma presto tornerà a giocare con te, ma presto tornerà a giocare con te. Ma ieri l'altro la radio ha detto che Yuri Gagarin, il giullare dei cieli, non ha visto gli angeli, non ha visto gli angeli, non ha visto gli angeli giocare nei cieli. Amico mio, come farai, come farai a giocare da solo? Amico mio, come farai, come farai a giocare da solo? Suo volto, i capelli mai pettinati e baffi, barba, è uno sguardo che osserva lontano, che osserva al di là delle persone e dei fatti, al di là della sua stessa terra. È un uomo curioso, Giuseppe Impastato, detto Pepino, a Cisi è nato e cresciuto. Il padre, Luigi Impastato, è un commerciante amico di mafiosi. Lo zio, Cesare Manzella, a un capo mafia ucciso nel 63 nel corso di una guerra tra clan. È giovane Peppino. E lui ha fatto un giuramento, così come mio padre, io non diventerò mai. Molti dicono che è matto, ma altri giovani del paese si uniscono a lui. Siamo nel 1976, insieme ad un gruppo di amici mette su una radio libera, la chiama Radio Out, una piccola emittente che denuncia le illegalità, i progetti criminali, gli affari della mafia. Nel 78 impastato decide di candidarsi come indipendente nelle liste di Democrazia Proletaria alle elezioni comunali. Ma quell'appuntamento non arriverà mai. È il 9 maggio del 1978. Sono le ore 1:40. E il macchinista del treno Trapani-Palermo avverte uno scossone. Permea la locomotiva e osserva che il binario è tranciato. Così avverte il dirigente della stazione ferroviaria e alle 3:45 chiama al telefono i carabinieri, che arrivano sul posto e compiono il primo sopralluogo. Il binario è rivelto per un tratto di 40 centimetri e nel raggio di 300 metri sono sparsi i resti di una persona. Lo stesso 9 maggio il procuratore aggiunto Gaetano Bartolone invia un fonogramma al procuratore generale in cui parla di attentato alla sicurezza dei trasporti mediante esplosione dinamitata. E scrive, aperte virgolette, verso le ore 0:30-1 del 9.5.1978, virgola, persona allo stato ignota, con due G, ignota, virgola, presumibilmente con due B e due M, identificantesi in tale impastato Giuseppe, virgola, si recava a bordo con due B, a bordo, tutto attaccato, a bordo con due B, della propria autovettura Fiat 850, all'altezza del chilometro 30 più 180. E gli regaliamo anche il 180, della strada ferrata Trapani, trattino Palermo, virgola, per ivi collocare un ordigno dinamitato, virgola, che virgola, esplodendo, virgola, dilaniava lo stesso attentatore, punto, e ci vogliamo mettere pure le virgolette, e mettiamoci le virgolette, bravo, Martorana, ce l'abbiamo fatta, 11 aprile del 2002, così, 24 anni dopo, così. Nel frattempo, tu puoi essere morto dentro, no? Tu che stai cercando la verità e la giustizia sulla morte di tuo figlio, tu sei morto. Nel frattempo, tutti i tuoi amici ti hanno abbandonato. Nel frattempo, hai sentito dire, ah, suo figlio se l'è andato a cercare, rompeva i coglioni, sempre con sta mafia, la mafia, la mafia, aveva un chiodo fisso, la mafia. Tu puoi essere morto, detto, ma 24 anni dopo lo Stato ti mette una bella sentenza e dice che è stato lontano va dalla mente. Il posto decisi. L'uomo per cui tutti alla manifestazione, il giorno dei funerali, sostenevano che era il mandante di quel omicidio. E uno dice, va bene, ti hanno dato pure la sentenza. E i carabinieri? E il giudice Mattorana? E che facciamo di loro, eh? La commissione parlamentare d'inchiesta sulla morte di Peppino Impastato scrive. È tutto ancora da decifrare, il capitolo del rapporto tra mafiosi e forze dell'ordine. E quando finalmente lo si scriverà si potrà vedere che è popolato da noti capi mafia che con i carabinieri trattano, si accordano, fanno dei patti. Un doppio gioco, ma la luce del sole. Così scrive il Parlamento. Un binocolo, una collina, adesso vi vedo bene. Se io avessi un binocolo ti vedrei molto bene. Sono occhi che osservano dall'alto della collina e sono occhi minacciosi, pieni di odio. E occhi che hanno il colore del tritolo che incrociano occhi buoni di uomini e donne che sono dentro un'automobile che corre verso la morte. L'ultima corsa di Giovanni Falcone inizia all'aeroporto di Ciampino, a Roma, sabato 23 maggio del 92. Quando arriva a Palermo, all'aeroporto di Punta Raisi, a lui e alla moglie Francesca Bordillo gli attendono 6 agenti con le loro auto, 3 Fiat Croma blindate. Le vetture si muovono dall'aeroporto alle 17.50. Falcone sceglie la croma bianca, lui al volante e la moglie gli siede accanto. Imboccano la A29. Falcone sceglie la croma bianca e la campagna siciliana sfila ai lati con tutti i suoi colori di maggio. Il sole taglia di traverso i finestrini mentre un caldo vento di scirocco accarezza tutti i loro volti. C'è odore di mare a Palermo, c'è odore di mare. Sulla statale che corre parallela all'autostrada una Lancia Delta si mette in moto. È quella di Gioacchino La Barbera. Palermo dista soltanto 7 chilometri. Le auto si stanno lentamente avvicinando allo svincolo capace isola delle femmine. Dalle colline, con un binocolo, tu puoi osservare la scena, scatto dopo scatto, come fosse una sceneggiatura di un film. L'interruttore che mette in moto il meccanismo della strage è un segnale in codice, una telefonata sbagliata. E allora, La Barbera sale sulla sua Lancia Delta e imbocca la strada che corre a parallela alla Palermo Punta Raisi. Arrivato ad un punto prefissato si ferma ed aspetta. Ferrante e Salvatore raggiungono l'aeroporto. Cioè e Troia inseriscono una ricevente vicino a 500 kg di esplosivo in un tombino dell'autostrada. Poi salgono con brusca battaglia sulle colline di Capaci. Dall'autostrada spuntano 3 Fiat Croma. La Barbera riparte e le segue a distanza. Alle 17.49 chiama Cioè sulle colline. Meno di un secondo e la telefonata si interrompe. È il uomo. Tu lo sai io che cosa posso fare se io in questo momento avessi un telecomando? Lo sai che cosa può fare un telecomando a distanza? Un telecomando a distanza innesca una piccolissima impercettibile esplosione che va a far esplodere dell'esplosivo, in quel caso 500 kg per esattezza. E io potrei ridurvi a uno a piccoli, minuscoli pezzettini. Nessuno, nessuno, proprio nessuno vi riconoscerebbe mai più. Alle 17:56 minuti e 48 secondi, l'uomo della collina, Giovanni Brusca, sfiora il tasto del comando a distanza. L'impulso raggiunge il tombino dove è collocata la ricevente. I 5 quintali di tritolo seppelliti dentro nel canale di scudo di Pampa. Il boato enorme solleva 100 metri di asfalto. Nella prima auto catapultata a 5 metri gli agenti di scorta muoiono sul colpo. Si chiamavano Antonio Montinaro, Rocco Di Cillo, Vito Schifani. Giovanni Falcone e Francesca Morvillo moriranno un'ora più tardi all'ospedale di Palermo. E Paolo Borsellino, che lo ripeteva come fosse un'ossessione, il mio problema è il tempo, lo diceva in quei 55 giorni dell'estate del 92. Il 19 luglio del 92 a Palermo, una domenica calda, Paolo Borsellino pranza in famiglia nella casa di Villa Grazia di Carini, poi nel tardo pomeriggio decide di far visita all'anziana madre. Tra il mare e la casa della signora Maria a Palermo c'è un'autostrada. E quel pomeriggio le telecroma passano proprio davanti a Capaci. Arrivati in città raggiungono via Mariano D'Amelio, una strada chiusa, costruita al fondo da un muro di tufo. Paolo Borsellino fa giusto in tempo a citofonare al numero civico 21 quando alle sue spalle esplode una Fiat 326 carica di tritolo. Muore sul colpo con lui 6 uomini della scorta. Si chiamavano Antonio Vullo, Emanuela Lori, Walter Cusina, Claudio Traina, Vincenzo Limuri e Agostino Catalano. Così si moriva a Palermo. Soli, senza la protezione dello Stato che si serve, senza neanche il tempo di vivere, senza un saluto, senza aver chiuso l'ultima pagina di un'inchiesta. Soli e minacciati, lavorando e basta. Soli, semplicemente soli. Grazie. E non dimenticare Falcone e Borsellino. Bravo. Suoi capelli. scriveva Giovanni Falcone. Un uomo fa quello che suo dovere fare, quali che siano le conseguenze personali, quali che siano gli ostacoli, i pericoli o le pressioni. Questa è la base di tutta la moralità umana. Moralità umana! Gli uomini passano e le idee restano. Restano le loro tensioni morali che continueranno a camminare sulle gambe di altri uomini. Non è retorico né provocatorio chiedersi quanti altri coraggiosi imprenditori uomini delle istituzioni dovranno essere uccisi perché i problemi della criminalità organizzata siano finalmente affrontati in modo degno, degno di un paese civile. Delle organizzazioni mafiose è costituito dalle tracce che lasciano i grandi movimenti di denaro connessi alle attività criminali più lucrose. Più lucrose! Credo dovremmo ancora per lungo tempo confrontarci con la criminalità organizzata di stampo mafioso. Per lungo tempo, ma non per l'eternità. Perché la mafia è un fenomeno umano e come tutti i fenomeni umani ha un principio, una sua evoluzione e avrà dunque una sua fine. Generalmente perché si è soli o perché si è entrati in un gioco troppo grande. Si muore spesso perché non si dispone delle necessarie alleanze, perché si è privi di sostegno in Sicilia, ma anche a Milano. La mafia ha colpito i servitori dello Stato che lo Stato non è riuscito a proteggere. Questa è la nostra memoria, quella che non deve mai andare dispersa. Raccontiamolo soprattutto ai più giovani, per non dimenticare. Grazie!